24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui 7:21 minuti in questo istante. Buongiorno cari ascoltatori, saluto oggi Carmelo Lauricella in regia al posto del nostro Alpino. E oggi parleremo e torneremo sulla vicenda NoTav che sta succedendo. Ma io, avete sentito le notizie del traffico? È bloccata da non so n ore un'autostrada. Oppure si sentono urla di vendetta, ora vendetta. Insomma, questa vicenda della NoTav sta diventando una questione di ordine pubblico imponente. Ne parleremo con il direttore del giornale, nelle polemiche anche lui, perché ha definito cretinetti Luca Abbà, che è salito su un traliccio e è rimasto folgorato, e con l'ex magistrato Livio Pepino, che è ora un NoTav, ha anche acquistato uno dei terreni a Chiomonte che lo Stato deve requisire per fare la TAV, per l'appunto. Tutto questo più avanti. Parleremo anche di lotta alla casta. Ci sarà il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Onofrio Introna, con noi, visto che pare che ci siano nuovi benefit alla regione Puglia, ma questo più avanti, alle 8:20. Ora la lettura dei giornali in edicola. In questo mercoledì 29 febbraio, allora, intanto qualche titolo. Banche, taxi, farmacie, tutte le novità, questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera: accordo su farmacie e taxi, dunque il fronte liberalizzazioni per questi due quotidiani. La Repubblica invece: imprese, un piano da 20 miliardi, questo è il titolo d'apertura. Per il Messaggero: task force contro l'evasione, e su questo titolo anche la Stampa: evasione, ecco il piano Monti. Mentre per trovare la TAV bisogna andare sul giornale: forza polizia, mandali via, questo è il titolo del giornale. Il Manifesto invece, c'è una foto delle manifestazioni col titolo: non passerà. Si gioca sulle parole non passerà, e il ministro Passera, che invece ha detto continui i lavori. Vedete invece il titolo di Libero, pacato: feccia rossa, si gioca sull'alta velocità e sui treni, per definire invece così i NoTav, feccia rossa. L'Unità invece: un altro rating è possibile, il valore antimafia approvato, l'emendamento che accoglie la proposta lanciata sull'Unità, il credito agevolato per l'impresa che sceglie la legalità. Mentre il Fatto Quotidiano apre su notizie dalla casta: manager pubblici, soldi non si toccano. Cari ascoltatori, ne abbiamo parlato due giorni fa, io voglio partire proprio da qui, ebbene sì, dal titolo d'apertura del Fatto: è tornata a colpire la reformatio impeius. Ne avevamo parlato, Carmelo Lauricella mi guarda sbandando. La reformatio impeius, caro Carmelo, non si può toccare i diritti acquisiti dei manager pubblici. Questo pare il parere che esprimerà oggi ufficialmente la Commissione Affari Costituzionali della Camera, alla quale il governo ha chiesto un parere per il tetto ai manager pubblici, un tetto allo stipendio da 295.000 euro che è sforato da molti dipendenti pubblici, le classifiche le avete tutti visti. Scontro sull'applicabilità del tetto, pagina 20 del Sole 24 Ore. E Sergio Rizzo del Corriere della Sera ne scrive in prima pagina, due giorni fa, lunedì, era qui da noi a dire che questa norma è stata scritta male. E oggi Sergio Rizzo lo riscrive, lo diciamo da giorni, che è scritta male, non si può applicare. Ed eccolo qui allora i presidenti delle commissioni affari costituzionali Donato Bruno e del lavoro Silvano Moffa scrivono che il divieto di reformatio impeius è posto a protezione dei diritti acquisiti intangibili da parte della pubblica amministrazione, la quale non può incidere in senso negativo sul maturato economico raggiunto dal pubblico dipendente delle cui prestazioni lavorative intenda continuare a valersi. Tradotto, gli stipendi dei dirigenti pubblici non si possono diminuire. C'è la reformatio impeius che non si può fare. Sergio Rizzo chiede chi va a spiegare a un pensionato ai quali i diritti acquisiti sono stati massacrati più volte che quelli dei dirigenti statali pagati come 20 impiegati non si possono toccare? Vuoi andare tu, Carmelo, a spiegarglielo? in parole pacate. Tetto per i super manager, la Camera frena, poi ci ripensa. C'è un giallo, questo è il titolo del Messaggero, perché è successa una polemica, visto che è stata messa avanti la reformatio impeius impossibile, no? C'è una polemica perché ci sono invece deputati tipo Brunetta del PDL o Bressa del PD che dicono no, vedrete che alla fine, perché il parere ufficiale è atteso per oggi, queste sono indiscrezioni. Vedrete che alla fine ci uniformeremo a quello che prevede il governo e che quindi il tetto verrà abbassato. Il tetto impossibile, anche il titolo del Fatto Quotidiano, l'articolo di Stefano Feltri, ci provano da 5 anni i governi per abbassare il tetto dei manager pubblici, ma il Parlamento affonda la norma che fissa a 295.000 euro lo stipendio dei super burocrati di Stato. Oh, vedremo come va a finire. Oggi c'è la presa di posizione ufficiale delle commissioni affari costituzionali e lavoro. Questa però sembra la linea che vi avevamo già anticipato. Non si può riformare in peggio un contratto già in essere. Cari pensionati, avete capito? Allora, sempre notizie dalla casta invece, al Senato, il presidente del Senato Schifani ha detto basta tutti i benefit a vita per gli ex presidenti del Senato. Che ne so, Carlo Scognamiglio, Nicola Mancino, Marcello Pera, Franco Marini, Emilio Colombo, Giulio Andreotti e Lamberto Dini sono gli ex presidenti del Senato in vita che godono di benefici a vita. E scusate il gioco di parole. E il problema è che questo, sono stati tagliati questi benefit. Non ne avranno più diritto per sempre, ma solo per 10 anni, cioè finiscono il mandato e per 2 legislature, dunque per 10 anni hanno diritto ancora a che cosa? Un bell'ufficio grande sempre al Senato, la carica di past president, immagino insomma qualche dipendente, 3 o 4 eccetera. I tagli per gli ex presidente, i benefit non saranno più a vita, limite di 10 anni. Questo sul Corriere della Sera, Dino Martirano, ma anche il Fatto Quotidiano, Schifani taglia i suoi privilegi, ma tra 10 anni. Tra l'altro il Corriere raccoglie Carlo Scognamiglio come parere, ex presidente del Senato per 2 anni, ha detto in maniera distaccata, in tempi di sacrifici nessuno escluso e neanche noi. Tra l'altro però scrive sempre il Corriere che una norma transitoria permetterà proprio a Scognamiglio di scavallare il limite dei 10 anni, consentendo loro ai presidenti di rimanere a Palazzo Giustiniani fino al termine dell'attuale legislatura, cioè fino alla primavera del 2013. A seguire toccherà Marcello Pera, che è cessato da presidente del Senato nel 2006, quindi fino al 2016 avrà i privilegi o i benefit. Franco Marini, c'è decaduto nel 2008, quindi rimarrà a Palazzo Giustiniani fino al 2018. Insomma, tutto questo per risparmiare 1 milione di euro l'anno. Via i benefit agli ex presidenti del Senato, ma solo dopo 10 anni. Per 10 anni li avranno ancora, da quando decade la loro posizione. E poi no, basta. Vi sta bene così? 24 mattino. Eccoci alle 7:35 minuti. Allora, l'attualità politica e parlamentare vede il decreto liberalizzazioni in primo piano. E tutte le novità le trovate sul Sole 24 Ore, pagina 3. Le misure che sono state approvate nella notte, e probabilmente oggi verrà messo un maxi emendamento con la fiducia da parte del governo, prevedono varie novità sul fronte farmacie, taxi, c'è una nuova tassa, ma questa, vabbè, dai, passiamo oltre. Un irrobustimento del pacchetto banche con la portabilità dei mutui, lo stop alle clausole sulle linee di credito, maggiore spinta sulle farmacie, quasi 5.000 nuove aperture, possibilità di vendere dal 2013 farmaci monodose. C'è invece una frenata sui taxi, con la nuova autorità dei trasporti chiamata a esprimere un parere preventivo, ma non più vincolante sulle licenze che saranno di nuovo affidate alle regioni e ai comuni. Un sostanziale rinvio del nodo tesoreria unica a un eventuale emendamento, e su questo avevano protestato moltissimo gli amministratori locali. Queste alcune delle novità le ho lette dall'articolo di Marco Rogari a pagina 3 del Sole 24 Ore. Diciamo che di fatto è un restyling non proprio di poco conto, quello messo a punto negli ultimi giorni in commissione. Ci saranno certamente diversi scontenti, come i farmacisti. Verrà prevista una farmacia ogni 3.300 abitanti e più spazio per le parafarmacie. Scontenti anche gli istituti di credito, per esempio per il fatto che ci sarà il conto corrente gratuito per i pensionati con assegni inferiori a 1.500 euro. C'è la mini tassa, eccola qua, la mini tassa sulle imprese per finanziare l'antitrust, un contributo dello 0,08 per mille sul fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni per finanziare l'antitrust, appunto. Libero, che certo non è tenero con il governo Monti sulla questione tasse e arriva a contarle, dice: eccolo qua il balzello numero 54 del governo Monti. Giuliano Zulin in prima pagina di Libero: siamo alla tassa numero 54, un balzello dello 0,08 per mille sul fatturato delle grandi imprese, quelle che fatturano oltre 50 milioni di euro l'anno. La novità, scrive Libero, però sta nel padre del prelievo, è Enzo Ghigo, ex presidente del Piemonte e deputato del PDL. Ma come? Si chiede Libero. Arriva la tassa numero 54, ma stavolta è del Popolo della Libertà. Questa è la critica del quotidiano Libero, che politicamente peraltro sta da quella parte. Come detto, invece, la questione della tesoreria unica è stata rinviata perché ci sono stati molti amministratori locali, non solo i leghisti. Zaia, il governatore del Veneto, aveva detto: diffido il nostro tesoriere della regione di dare i soldi e trasferirli, doveva essere fatto e deve essere fatto entro oggi alla tesoreria unica dello Stato. Erano stati definiti uno scippo, una rapina di Stato, il ratto di Monti, in tanti modi. Sta di fatto che anche il Corriere a pagina 5 dedica una pagina a questo: tesoreria unica, accordo dopo lo scontro, il governo apre agli enti locali. Di fatto vengono trasferiti soldi, ma il governo si impegna a dare compensazioni agli enti locali per 7 miliardi di euro. C'è invece il nuovo fronte di lotta all'evasione fiscale. Ieri il Premier Monti ha presentato una vera e propria task force contro l'evasione, che, ricorda Repubblica, conta al paese una perdita di gettito di 120 miliardi l'anno. Queste sono le stime. E allora Monti ha convocato per la prima volta un nuovo organismo di coordinamento per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale, con il viceministro Grilli, sottosegretario Polillo Ceriani, responsabili di 5 articolazioni di agenzie delle entrate, dogane, territorio, monopoli, guardia di finanza, per fare una vera e propria task force, insomma, continuare al motto di, ha detto Monti, e chissà il nostro Oscar Giannino come schiumerà di rabbia di fronte a questa frase: se pagano tutti le tasse, ci saranno meno tasse per tutti, meno tasse, insomma, se tutti pagano. Basta invece valicare le Alpi, arrivare in Francia, per una proposta del candidato socialista all'Eliseo, François Hollande, che è il candidato che si oppone a Sarkozy, il presidente uscente. Ebbene, il candidato socialista ha presentato che cosa? Una proposta che anche i suoi stretti collaboratori dicono non ne sapevamo nulla. Un'aliquota al, udite udite, 75% per i redditi superiori al milione di euro. Riecheggia veramente la proposta, quella che fece di Fondazione Comunista qui: anche i ricchi piangano, ora anche i ricchi paghino, com'è che, insomma, i ricchi paghino, ecco, un'imposta dell'aliquota al 75% per i super ricchi, o i ricchi, definiteli come volete, quelli che hanno oltre un milione di euro di reddito. Questa è la proposta del candidato socialista Hollande all'Eliseo. Ovviamente sta facendo molto discutere, perché è stato anche un coniglio dal cilindro, pare, no? Tirato fuori da Hollande. Chissà se gli gioverà o gli si ritorcerà contro. Sta di fatto che invece qui la cronaca in Italia, torniamo un po' al di qua delle Alpi e Parliamo di quello che sta succedendo in Val di Susa, noi ne parleremo alle 8.30. E cosa sta succedendo? Beh, dal punto di vista dell'ordine pubblico lo avete sentito, c'è un'autostrada a Torino-Bardonecchia ancora chiusa. Ogni tanto la polizia per ieri ha cercato di sgombrare, credo che per un certo periodo ci sia riuscita. Poi dopo i blocchi sono ripresi, continuano. Si leggono sui giornali delle minacce francamente incredibili. Ora vendetta, l'ira dei Notav. Vendetta perché? Perché l'accusa è sempre quella, incredibile. Avete causato il... tra l'altro fortunatamente non il morto, però è in condizioni sempre molto gravi. Luca Abba, che è salito sul traliccio ed è caduto. Sta di fatto che, come racconta Stefano Folli in prima pagina del Sole 24 Ore nel suo punto... Dal titolo Prova di maturità, la Val Susa, scrive Folli, è la nuova prova di maturità per il governo e per l'intero sistema politico. Non è una novità, naturalmente, sono circa 12 anni che la realizzazione della ferrovia veloce equivale a un rebus irrisolto e irrisolvibile, discussioni, confronti, infiniti negoziati, compromessi. La differenza col passato è che a Roma esiste un governo tecnico che per sua natura è votato a realizzare l'opera. Tutto questo sulla carta. In pratica le cose sono più complicate. La questione Notav è ormai diventata una grande questione di ordine pubblico, una seria questione, con blocchi sulle autostrade in almeno una stazione ferroviaria a Lecce. Cioè, avete capito, a Lecce. Il rischio che la protesta dilaghi in forme ancora più incontrollate è reale. Fino a ieri le forze politiche non si erano mostrate particolarmente sensibili al problema. Nel complesso apparivano distratte, forse preoccupate di assumere posizioni troppo impegnative. Ieri, ad esempio, Di Pietro ha rilasciato una dichiarazione molto ambigua. L'alta velocità va fatta, ma studiamo un altro percorso, che con qualche ottimismo potrebbe essere intesa come un tentativo di non perdere i contatti con la maggioranza. Insomma... la situazione, dice Folli, è davvero ora rischiosa. Rischiosa perché da una parte il governo dice vanno avanti e devono andare avanti i lavori, dall'altra parte i Notav minacciano resistenza a oltranza, e ci sono anche frasi, ci sono anche delle scritte che sono tornate, per esempio una è ritratta da molti giornali contro sempre il procuratore capo di Torino Caselli, che era il nostro ospite due giorni fa. Caselli, ti ruberemo la salma. Questa è una delle scritte che è apparsa sui muri. E poi sui siti antagonisti. Ora vi ammazziamo noi, porci, servi, fascisti, padroni mafiosi, a morte voi. Avete cercato il morto per l'ennesima volta. Cioè, gira questa vulgata, insomma, di aver detto avete cercato il morto, come se non fosse stata invece una tragica fatalità. Quella di Luca Abba, cioè che si è issato su un traliccio ed è stato folgorato. E quindi da qui è partito questa lotta. Poi ovviamente c'è anche tutta la polemica per come è stato definito Abba. Noi avremo ospite il direttore del giornale Sallusti, glielo chiederò chiaramente. Ieri l'ha definito un cretinetti. Ebbene, oggi Massimo Gramellini risponde sul suo Buongiorno, sulla Stampa, pietale morta. C'è stato un tempo in cui eravamo intrisi di buonismo gelatinoso e il politicamente corretto invadeva il discorso pubblico col suo codazzo di espressioni ridicole. Ora quel tempo è passato. Molti pensano che il manifestante Notav caduto dal traliccio se lo sia meritato. Non solo lo pensano, lo dicono al bar, lo scrivono sul web. Ma quando lo stesso concetto esonda dal cicaleccio privato e diventa la domanda del sondaggio di un giornale Libero, o quando un altro quotidiano, Il Giornale, definisce a tutta pagina cretinetti un tizio che sta in coma all'ospedale coi polmoni arrostiti, significa che è in atto un salto qualitativo, come se la rinuncia al filtro della sensibilità avesse arrostito qualcosa anche dentro di noi. Non ho alcuna simpatia per i violenti, fanatici, provocatori che hanno rubato la scena al popolo pacifico dei Notav, ma di fronte a un essere umano che lotta contro la morte, al dolore della sua famiglia, al registro della pietà, continua a sembrarmi preferibile a quello dello sberleffo. La decadenza delle parole anticipa sempre quella della civiltà che ne abusa. Ma insomma, i commenti su questo, c'è anche La Maca di Michele Serra, alla quale risponde idealmente l'editoriale invece di Vittorio Feltri sul Giornale. Il clima è molto molto teso anche a parole. Dicevo, la marca di Michele Serra su Repubblica è solo un cretinetti. Ecco l'elegante titolo che il giornale dedicava ieri al manifestante Notav caduto dal traliccio. In termini semantici, politici, umani, la derisione dell'agonizzante fa da perfetto pandan alle scritte sui muri della sedicente area antagonista contro Caselli. Nessuna differenza, né di stile, né di significato quando si cancella la fisionomia umana del nemico. Da tempo, scrive Serra, del resto un pezzo importante del giornalismo italiano di destra sembra aver perduto ogni rispetto di se stesso. Vanno in televisione in giacca e cravatta, sfoderano sorrisi, discorrono amabilmente, quelle sono le pubbliche relazioni. Poi in privato, sui loro giornali, il linguaggio diventa sputo. Non le idee, ma le singole persone, con nome e cognome, sono esposte all'odio e al disprezzo, come teste mozze sulle picche, meritevoli di sghignazzo anche da rapiti o da morti, come fecero con il povero, umile, coraggioso Ernesto Baldoni, ammazzato dagli assassini islamisti e trattato da coglione perché, pensate, viaggiava da freelance in zona di guerra. Adesso c'è il cretinetti morente. Tanto in capo a un paio di giorni tutto passa in cavalleria. C'è un nuovo dibattito televisivo da affrontare con piglio British e un nuovo titolo sul quale infilzare la preda di turno. Speriamo che il prossimo sia almeno in buona salute. Risponde in qualche modo, idealmente, Vittorio Feltri, condirettore o comunque editorialista del giornale. Luca Ba, speriamo se la cavi. Questo è l'esordio di Vittorio Feltri. Così sarà lui stesso a dirci di essersi comportato da cretinetti e non dovremo sorbirci ancora le prediche di tanti censori che rimproverano il giornale di non essersi unito al canto elegiaco dedicato dalla stampa progressista al rivoluzionario da traliccio. Per fortuna, almeno per il momento, il ministro Passera, responsabile di 7-8 dicasteri, non si è lasciato intimidire dagli agitatori professionali che hanno trasformato l'innocuo treno in un casus belli. E poi, sotto il titolo Forza Polizia, ora mandali via, la conclusione di Vittorio Feltri però è di un cinismo non indifferente. Il governo va avanti per la sua strada ferrata, le forze dell'ordine facciano il proprio dovere, noi siamo con loro e non con gli scalatori di tralicci verso cui proviamo solo pena, specialmente quando constatiamo che non li sanno scalare. Questo Vittorio Feltri. E certo, poi, che dire, avete visto il video su Corriere.it di quel... Qui non c'è dubbio, lo si può definire così, deficiente, che davanti a delle forze dell'ordine, dei carabinieri impassibili, l'abbiamo sentita anche in GR24, gli dice: Pecorella, sei venuto qui per sparare? Pecorella, lo chiama così, ehi Pecorelle, li chiama anche stronzi, diciamo la verità. I carabinieri impassibili, è questo manifestante che ovviamente... schermandosi dietro al fatto che ci sono le telecamere a un centimetro e nessuno può dire niente, riversa una serie di insulti, di sberleffi a questi carabinieri che sono lì a fare che cosa? Cioè, perché è normale occupare un'autostrada? Sono lì a fare il servizio d'ordine. Ehi Pecorella, vuoi sparare? Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, fa tutto un commento a pagina 17 a dire: guardatelo questo video e vi rendete conto, insomma, che anche noi stiamo, 40 anni dopo, facciamo nostre le parole di Pasolini, quando disse: io sto dalla parte di poliziotti e carabinieri. Non c'è Pasolini oggi a difendere i poliziotti e i carabinieri schierati sui ponti di un'autostrada davanti a un cantiere in difesa della libertà di altri cittadini, ma bastano pochi frammenti del filmato di Corriere TV per capire da che parte stare, così scrive Gian Giacomo Schiavi. Va bene, parleremo alle 8.30 con il direttore del giornale Sallusti e con Livio Pepino, ex magistrato che ora sta con i Notav e ha anche acquistato un terreno di quelli che lo Stato dovrà espropriare. Cosa succede invece a Roma? Ieri l'anticipazione di Repubblica, oggi ci sono nuovi sviluppi su Repubblica e sul Messaggero. Un terremoto pare coinvolgere dal punto di vista giudiziario i vertici dei vigili urbani della capitale. Una mazzetta e niente multa. I vigili urbani della capitale ormai sono mister 1.000 euro. Qualcuno così, senza ovviamente dire il proprio nome e cognome, tra i commercianti li definisce a Trastevere i vigili 1.000 euro. E il Messaggero racconta da dove è partita questa vicenda, che che va anche a colpire i vertici, il comandante dei vigili urbani Angelo Giuliani, le accuse ai vigili urbani, il commerciante Paolo Bernabei, titolare della catena di enoteca più importante della capitale, di recente in un incontro con Alemanno ha esordito così: sui vigili urbani c'è una vera e propria cupola mafiosa. In due successivi incontri Bernabei ha raccontato al sindaco Alemanno della concussione a cui l'hanno sottoposto cinque agenti del primo gruppo, quello che si occupa di tutto il centro storico, della richiesta di 60.000 euro in tutto, 30.000 effettivamente pagati per ottenere l'autorizzazione a trasformare un magazzino in un vero e proprio ufficio, e del comportamento a suo dire gravemente omissivo da parte del comandante dell'intero corpo Angelo Giuliani, che secondo il commerciante Bernabei sarebbe a capo di una vera e propria cupola che sottopone i commercianti a continui taglieggiamenti. Da qui è partita questa inchiesta, e quindi i tangenti, corruzione, e che ovviamente immagino andrà avanti. Quanto ho? Guardo Carmelo, ho un minuto e mezzo, grasso che cola proprio. Allora, Libero continua la sua campagna contro gli ex terroristi, dopo aver scovato l'ex terrorista che sparava in Via D'Amicis nel 77 e che ora è il capo di gabinetto del vice sindaco di Milano, con le annesse polemiche, lui si è difeso, ha pagato i conti con la giustizia. Libero dice: ne abbiamo trovato un altro ex terrorista, lavora ora in Rai. Libero però è sparito, eccolo qua, ergastolano, ex brigatista, lavora in Rai, si tratta di Maurizio Iannelli, che tra l'altro firma la trasmissione Amore Criminale, programma di Rai 3 che parla di stalking e violenza contro le donne. Ha partecipato, è stato condannato a due ergastoli, tra cui la strage di Via Fani, condannato a due ergastoli nel processo Moro Bis e Moro Ter, ergastolano, ex brigatista, lavora in Rai. Trovate la storia a pagina 6. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Onofrio Introna. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, sai che a noi ogni tanto piace dare notizie dal mondo della casta, no? Come viene definito. Intanto, sì, va bene. Io sono rappresentante della casta. Ecco qua, stipendio del presidente del Consiglio regionale della Puglia, ce lo dice? Sì, certamente sì. L'indennità netta è 5.037 euro. 5.037, sembra un po' pochino, eh. Poi ci saranno Ma è netta. Tenga conto che partiamo da un rapporto all'indennità col parlamentare che è al di sotto del 90%, quindi da poco più di 10.500 euro. E su questo, oltre alle ritenute di legge, c'è un trattenuto del 22% per alimentare il fondo per il vitalizio e del 5% per alimentare il fondo per l'assegno di fine mandato. Cioè, chiariamo, io ho detto mi sembra un po' pochina, è elevata, mi sembrava un po' pochina, nel senso che ho letto sui giornali che i consiglieri regionali prendono 13.000 euro lordi, immagino. Intanto l'indennità è 11.000, le confermo, è 11.700 euro ecco, lorde. E su queste indennità, ripeto, oltre al trattenuto di legge, quindi dell'IRPEF, come tutti i lavoratori, ci sono questi due importanti prelievi, cioè pari il 27% viene trattenuto alla fonte per alimentare i due fondi, quello per i vitalizio, il vitalizio, e quello per il fine mandato. Vabbè, insomma, 5.000 euro non è gratis. No, è chiaro. Questo per chiarire che il vitalizio non è una concessione, non è però il consigliere se lo paga. Se lo pagano, sì, però, Presidente, abbiamo detto tante volte che dopo 5 anni di mandato uno prende un vitalizio. E questo è un'ingiustizia. Che è una pensione incredibile. Questa è sbagliata, sia come concetto, sia anche come modalità di assegnazione. In ogni caso, 5.000 euro 37 netti, un ottimo stipendio. Però abbiamo letto sui giornali, Gazzetta del Mezzogiorno, giorno e ieri il giornale lo riportava, che adesso arriva il nuovo benefit, la Via Card o il Telepass per i consiglieri regionali. È una notizia al 50% vero e al 50% falsa. Bella questa cosa, cioè, come mi spiego, allora, una notizia al 50% vero. Io sono stato eletto nel 1990 e tra le prime cose che furono assegnate, così come lei farà una ricerca, vedrà, in tutti i consigli regionali d'Italia, mi fu consegnata la tessera per l'autostrada. Il Telepass. Quindi non è una novità, è una consuetudine. D'altro canto, se il consigliere regionale da Bari deve andare a Potenza o deve andare a Napoli o a Roma e va in auto o con l'auto propria, con l'auto di servizio, ha il diritto, se va per motivi di servizio, evidente, certo, al rimborso delle spese. Ma questo già c'è, rientra nelle borse di spese. Però Presidente, mi risulta che ci sia un'indennità che va da 884 euro e sale fino al governatore, vendola a 2.800 euro di rapporto con gli elettori, cioè per spostarsi. Se non ci fosse ma in quella indennità certamente non vengono duplicati i costi per l'autostrada, cioè il costo dell'autostrada che viene certificato, perché la società autostrada mensilmente invia alla regione il rendiconto, è un rendiconto nel quale sono espressamente e chiaramente, senza possibilità di duplicazione, i giorni in cui l'autostrada è stata utilizzata e i tratti che sono stati fatti, per cui voglio dire è una spesa che non viene pagata due volte. Sì, però mi scusi, perché è il 50% vera? Cioè sono stati stanziati 100 milioni, 100.000 euro, 100.000 euro, di cui 70.000 per... 100.000 è tutto il fondo, di cui 70.000 per... sul quale gravano circa 70.000 euro 70.000. Per rimborsi annuali. Ma perché? Ce lo vuole spiegare se già c'è questa indennità di rapporto con gli elettori? Ai 70 consiglieri regionali, agli assessori, che utilizzano evidentemente le auto di servizio, al presidente della giunta, al presidente o al presidente del consiglio, in questo caso a me stesso. Quindi è un fondo nel quale vengono scaricate le spese per di un intero anno di autostrade. Però ma le posso chiedere, ma secondo lei è giusta questa cosa? Certamente sì. Perché? Cioè perché, è giusto pagare l'autostrada? Se viene fatta un'attività di servizio, guardi, lei fa il giornalista, se la sua testata lo invia a fare un servizio... Sì, certo, mi paga tutto. Lei le pagheranno, certamente, oltre al vitto, all'alloggio, se si ferma in albergo, anche il costo con la sua auto, o se va in aereo pagherà ancora di più. Però, ripeto, c'è questo rapporto con gli elettori che comprende già gli spostamenti, cioè un consigliere... prende 800 euro al mese per spostarsi dal collegio al consiglio. Ma nel rapporto con gli elettori non sono rimborsate le eventuali spese per l'utilizzo dell'autostrada, per cui non c'è una duplicazione di costi, sia tranquillo. Non c'è duplicazione. Detto questo, tra i benefit vengono messi anche i PC portati, o iPad, avete l'iPad? Allora, il consigliere regionale ha la necessità di svolgere la sua attività e invece di fornire i computer fissi in ciascuna stanza del consigliere regionale, viene dato incomodato d'uso, assegnato incomodato d'uso o un PC portatile o l'iPad. Non tutti la utilizzano, però il principio è questo: il consigliere, per svolgere la sua attività all'interno del palazzo, non può portarsi il suo computer da casa. È chiaro. Va bene? Cioè, voglio dire, stiamo parlando di strumenti che aiutano il rappresentante della comunità, perché il consigliere regionale non è un malfattore, è il rappresentante, cioè è l'unico livello di rappresentanza che viene regolarmente eletto con tanto di preferenze espresse. Insomma, lei, Presidente, contesta questa idea un po' demagogica di dire vi mettete in tempi di tagli, soprattutto il nuovo benefit. Ma guardi, fornire la pubblica amministrazione, in questo caso gli uffici del consiglio regionale, di tanti computer fissi con la velocità con la quale questi strumenti vengono superati avrebbe sicuramente dei costi maggiori e un approccio burocratico più pesante. Il consiglio regionale poi in qualsiasi momento è con i portatili, è in condizione di consultare o di andare su internet o di comunicare, voglio dire, sono strumenti che aiutano a far bene, se uno ha voglia di farlo, a svolgere bene. Senta, comunque lei mi conferma che i consiglieri tipo del Brindisino, dove l'autostrada non c'è, non la utilizzano. E non la utilizzano, non vengono rimborsati. La certificazione, come lei sa, avviene al casello. Deve essere presentato. Non è che il consigliere di Brindisi, per venire a Bari, si prende lo sfizio di prendere l'autostrada, quindi arriva prima a Napoli, poi da Napoli prende l'autostrada e torna indietro. Stiamo parlando di persone che rappresentano la comunità, quindi persone quali ci dovrebbe essere da parte di tutti. Che ne pensa della lotta alla casta? Che ne pensa della lotta alla casta? È demagogia? No, non è demagogia. La casta ha commesso molti errori. Il primo errore, secondo me, è quello di non aver avuto la grande forza della trasparenza e della comunicazione con la comunità. Trasparenza e la comunicazione con le motivazioni per le quali un balzello o un privilegio, come chiama lei, viene assunto, avrebbe certamente fugato molte di queste zone d'ombra. E quindi avrebbe restituito un po' di maggiore credibilità. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Onofre Introna è Presidente del Consiglio regionale della Puglia, per parlare di questo che è stato dipinto da alcuni come l'ennesimo benefit, vale a dire il rimborso delle autostrade per i consiglieri regionali. Ci fermiamo e poi tra 5 minuti con il direttore del giornale Sallusti, con l'ex magistrato Livio Pepino, parliamo di no TAV, ancora scontri, o meglio insomma contestazioni, blocchi autostradali e poi minacce di vendetta, non si capisce bene perché. 24 mattino. Siamo qui a 8:36 minuti, allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Parliamo dei notav, delle contestazioni, di quello che sta succedendo in Val di Susa, dove da un numero imprecisato di ore non ho neanche tenuto il conto, per esempio c'è un'autostrada bloccata, ci sono contestazioni soprattutto all'indomani della tragedia avvenuta con Luca Ba, che è salito su un traliccio ed è caduto dopo essere rimasto folgorato, ancora in gravi condizioni. Ne parliamo con due ospiti che ritornano, li abbiamo già avuti. Livio Pepino è un ex magistrato che saluto. Dottor Pepino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dopo essere stato tanti anni in magistratura, Livio Pepino ora è manifestamente contro la realizzazione dell'alta velocità. Credo abbia comprato anche uno dei terreni in questione, no? A Chiomonte, uno di quelli che lo Stato ora deve espropriare. È così, dottor Pepino? Certamente, sì. Saluto anche il direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Buongiorno e ben ritrovato, Sallusti. Eccoci qua, ci sente? Sì. Vediamo di migliorare la linea. Allora miglioreremo la linea, magari lo richiamiamo. Ci sente, Sallusti? No? Sì? No, adesso è caduta. La miglioriamo tra un attimo. Dottor Pepino, le vorrei chiedere questo. Cosa sta succedendo? Lei che è un uomo che per tutta una vita ha lavorato, è stato contatto con la legge. Non si è persa un po' il senso della misura anche nelle contestazioni? Forse una parte sarà anche minoritaria, violenta, sta prendendo il sopravvento nelle manifestazioni no TAV? Ma guardi, io non le so dire chi sta prendendo il sopravvento in questo momento, le so dire che proprio per la ragione che ha detto lei e per delle ragioni anche più generali, io credo che il degenerare in episodi di violenza sia un danno per tutti. Le dico di più, io credo che l'uso della violenza nel tentativo di trasformazione del mondo, della politica, sia sbagliato. Anche per una ragione fondamentale, che il mondo che si vuole costruire sarà fatto a immagine e somiglianza del modo in cui lo si costruisce, e usare la violenza. Allora, detto questo, e quindi prese le distanze nel modo più massiccio da fenomeni violenti, io credo che il discorso cominci qui, non finisca qui. Allora, il problema è se si vuole cercare di capire che cosa sta succedendo, come lo si affronta, Quali sono le ragioni per questo succede? Si mettono le basi per risolvere il problema, altrimenti ci inseguiamo vedendo chi trova gli aggettivi più duri per definire quello che sta succedendo, ma non modificando la realtà. Senta, ma voglio dire, il ministro Passera che dice i lavori continuino, secondo lei è una posizione corretta da parte di un governo che nella scia dei precedenti governi, e siamo nell'Unione Europea, porta avanti legittimamente un'opera oppure no? Io credo di no, e le dico perché, posizione che sto sostenendo da almeno un anno. La realtà è che su questo tema un reale confronto non c'è mai stato. Il confronto che c'è stato e che viene evocato dai SITAV è l'aver detto 5 anni fa e poi per un certo periodo, se volete discutiamo come si fa l'opera. Non c'è mai stato un confronto reale per discutere l'utilità dell'opera. Allora, io capisco tutto, gli egoismi locali, l'interesse nazionale. Mi sembra che ci sia una proposta molto semplice, c'è un nuovo governo, un governo di tecnici. Non si può fare una sospensiva di un mese. Ma ancora una sospensiva? Una sospensiva della situazione di un mese. Ma tra un mese cosa crede che succeda? Cioè, nel senso, se si vuole riprendere... No, io vorrei dire non cosa succede tra un mese, cosa deve succedere in questo mese. Si faccia una sorta di dibattito nazionale, invitando tecnici di scelti con criteri oggettivi, sì, e si discuta delle politiche dei trasporti, dei costi economici, dei danni ambientali, e poi un nuovo governo, questo nuovo governo, che non era stato coinvolto nel precedente, assume le sue decisioni. Però voglio dire, sono decisioni che sono già state prese, nel senso, però si fermi un attimo, perché abbiamo ripristinato il collegamento col direttore del giornale, Alessandro Sallusti, che saluto. Buongiorno Sallusti. Buongiorno. Allora, con Livio Pepino, ex magistrato, che come lei sa, insomma, sta dalla parte di coloro che contestano l'utilità di quest'opera, ha anche comprato un terreno a Chiomonte di quelli che lo Stato deve espropriare. Intanto Sallusti, però le devo chiedere di questo titolo di ieri, che oggi non so se ha già visto i giornali, sia Michele Serra sulla Maca, sia Gramellini sul Buongiorno della Stampa, attaccano il giornale per questo cretinetti che avete utilizzato, cioè un po' in spregio anche a una persona che avrà fatto anche una cosa sbagliata, ma insomma è lì in un pericolo di vita ancora attuale. Si è pentito di questo titolo? Io non c'è nessuna relazione tra quell'aggettivazione e il pericolo di vita che questo signore, che non è un ragazzo, continuiamo a chiamarlo ragazzo, c'ha 40 anni, sia in pericolo di vita, ci spiace moltissimo e tifiamo e preghiamo per lui, ma ciò non toglie che abbia fatto una cretinata. Ma questo non è che è ad personam su signore. Se mio figlio torna a casa e mi dice: sai papà che oggi sono salito su un traliccio, dico: ma sei un cretino? Cioè, voglio dire, credo che con quel titolo si intercetta la reazione naturale, spontanea di chiunque di noi, che sia TAV o non TAV, perché sui tralicci non si sale. E che alcuni salgono anche, e non vorrei aggravare la mia posizione, per colpa anche di quello che sta succedendo in cioè di un magistrato che in una radio importante fa la premessa: la violenza non serve, ma però quel ma però è una mina vagante. No, beh, ma non è che ha detto ma però. No, ma però è illegittima la TAV, ma però la TAV va fermata, ma però bisogna ridiscutere la TAV. Ma questa è una posizione. Allora, quel ma però è quello che innesca poi i vari ragazzi che uno sale sul traliccio, uno sputa in faccia al poliziotto, uno tira una bomba molotov, è quel ma però, perché questo Parlamento, il Parlamento di questo Paese, il Consiglio regionale del Piemonte, hanno votato democraticamente che quell'opera va fatta. E quindi in democrazia non è che si può continuare a dire sì ma non conta, sì ma fermiamoci. Pepino, questa è l'accusa, cioè di voler, a parte se vuole rispondere a quel ma però che lei dice, dopo aver preso massicciamente le distanze dalla violenza, però c'è la questione di un'opera che viene fatta male, cioè si vuole sempre tornare indietro in Italia? Non è che si vuole sempre tornare indietro, poi risponderò ad alcune delle cose che sono state dette ora. Io le faccio presente che, per esempio, il Portogallo ha rinunciato all'opera. Allora, non è che nel 1990 si prende una decisione e questa deve per una ragione oggettiva essere mantenuta ferma, anche se cambia il mondo per i prossimi 50 anni. Ma mi scusi, dottor Pepino, ma deve essere rinunciata un'opera perché una minoranza, perché sono comunque una minoranza, cioè, se si facesse magari un sondaggio in tutta l'Italia, è vero che deve passare per la Val di Susa, ma con questo voglio dire, i rumorosi avrebbero, i contestatori potrebbero bloccare un'opera che magari è di vitale importanza, magari, dico, per l'Europa. Le ho detto prima che la richiesta è la richiesta di avere un momento di confronto sulla situazione del 2012, su quello che sta succedendo ora, su quella che è ora l'utilità dell'opera, su quella in una situazione base in cui non si tratta, io ho usato prima il termine sospendere, non si tratta di sospendere nulla perché non sta accadendo nulla in quel cantiere, non si sta lavorando da giugno, diciamo. Allora, la richiesta è: si vuole davvero fare un confronto che alla fine darà ragione a tutti quelli che vogliono la TAV? Se sono così sicuri che questa è la soluzione migliore, si chiede un confronto. Chi è così sicuro che è evidente quello che sta dicendo avrà una riprova che sono dei pazzi quelli che non lo vogliono. E forse il timore è che un confronto reale non dica questo, ma dica qualcos'altro. Se mi consente, solo una cosa rispetto alle cose che ha detto il direttore Sallusti. Allora, definire Luca Bà un cretinetti, oltre che una grave volgarità, è, a mio modo di vedere, quello sì un modo per provocare ulteriormente e gravemente degli scontri, non certo il fare delle analisi sulla TAR, perché vede, dire che uno che fa un gesto non violento, perché viva Dio, tutto sarà violento, ma salire su un traliccio mettendo a repentaglio la propria vita, non quella del direttore Sallusti, per sostenere un'idea, questo è un gesto non violento. Certo, ma sì, ma certo, ma direttore Sallusti, no, non è stato accusato. Dei cretini, anche i Bonzi che si incendiano, o Juan Palak, che sono dei cretini perché non serve economicamente. Queste sono delle persone che cercano con un gesto dimostrativo, che casomai fa del male a se stessi, non ad altri, di richiamare l'attenzione su un problema. Allora, dire che questo era cretini significa dire fate delle altre cose, passate all'azione. Questo sì che è un indiretto. Insomma, Sallusti, poi vorrei uscire da questo. Da questo schema, prima del traffico, però volevo dire una cosa soltanto: uno che non ho mai visto che per un gesto non violento uno finisce in coma, perché il gesto è violento; due, che se ne prenda la responsabilità lui e i suoi amici, non accusino la polizia di averlo provocato; terzo, lei mi dice se definisce o no cretino o un'alternativa, come definisce quel ragazzo che ieri sera abbiamo visto insultare io l'ho già definito un deficiente. Se quello è un cretino o no, glielo devo chiedere dopo il traffico, ho già sforato di un minuto. Io l'ho già definito un deficiente, cioè quel ragazzo che di fronte a un carabiniere che era lì in servizio d'ordine diceva pecorella vuoi sparare, ma poi l'ha definito anche uno stronzo, diciamo la verità, più volte lui e i carabinieri che erano lì. Allora, intanto avete sentito le informazioni del traffico, ormai passa come rimane invariata la situazione in Val di Susa, dove c'è un'autostrada bloccata da non so quante ore. A proposito di questo, la domanda che il direttore Sallusti ha fatto a Livio Pepino è come definire questo, lo vogliamo sentire in audio, la scena. Dovete immaginare carabinieri lì in assetto, ovviamente, insomma, maschere antigas, cioè pronti a evitare o anche a intervenire, e un ragazzo che è appoggiato tranquillo con la barbetta a 5 centimetri, gli dà delle pecorelle, stronzi sì, però gli ha dato, sentiamo. Bella. Che pecorella sei? Non c'hai un numero, un nome, un cognome, niente, vero? Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. E io così non so chi sei, tu sai chi sono io. Vero pecorella? È vero pecorella? Sei forte, niente, non so che c'hai io. Ma sai anche sparare? Sai sparare? Vedete, dice pecorella, sai anche sparare, il carabiniere impassibile. Come... Dottor Pepino, come lo definirebbe questo ragazzo? Ma io trovo addirittura provocatorio che me lo si chieda. Che quello sia uno scemo mi sembra del tutto evidente. Quello che non capisco, e qui dimostra però la debolezza degli argomenti, è come quando si sta parlando di uno che sale su un traliccio mi si dice ma questo è uno scemo. Allora, continuiamo a parlare di chi sale sul traliccio, dopodiché se mi chiedete su questo, ripeto, trovo addirittura provocatorio che me lo si chieda, mi sembra ovvio che è così. Vado dicendo questo da una vita, non ho capito perché, con una sorta di proprietà transitiva, si vuol dire che siccome uno è uno scemo, sono scemi tutti quelli che sostengono. sostengono un'idea che non ha niente a che vedere con le parole che quel personaggio ha detto. Senta, no, ma io le faccio queste domande, se vuole anche banali, come per esempio le chiedo anche che ne pensa di tutte le, la risposta la posso immaginare, di tutti gli insulti. L'ultimo che abbiamo visto scritto su un muro è: Caselli, ti ruberemo la salma. Caselli è il procuratore di Torino che è stato nostro ospite 2 giorni fa e che è suo amico, lei conosce bene, cioè capisce che lei non, è ovvio che lei non sta minimamente dalla parte di questi violenti, ma ormai è tutto un grumo di contestazione nella quale, come dire, certo. Le dicevo prima, proprio perché sono molto preoccupato di quello che sta accadendo, penso che sia razionale, intelligente, qualunque sia la posizione che uno ha sul TAV, cercare di individuare le modalità per uscire da questa situazione, non buttare olio sul fuoco. Temo che non ce ne siano di fronte a un gruppo di persone, anche minoritarie, il numero che dica faremo vendette, faremo resistenza oltranza, cioè che via d'uscita si può fare. Sallusti oggi il giornale titola "Polizia mandali via". Sallusti, è questa la prova di forza, sarebbe una via d'uscita? Beh, direi che sarebbe ingiusto parlare di prova di forza. La prova di forza è qualcosa che attiene a un blitz, a una cosa che ha una reazione. Beh, c'è per esempio, un'autostrada bloccata. Siamo anni, mesi, anni che quelle strade sono bloccate, le autostrade sono bloccate da questi provocatori. A questo punto non sono più neanche contestatori, sono dei provocatori. E allora io credo che uno Stato abbia il diritto di ripristinare la sovranità nazionale e soprattutto abbia il diritto di difendere, oltre che i cittadini della Bassusa e l'avvocato, anche gli altri cittadini che vengono ingiustamente coinvolti e penalizzati in qualcosa che tra l'altro ormai sa più di teppismo che di protesta. E quindi lo Stato ha il diritto dovere di ripristinare l'ordine. Pepino, lei perché ha comprato questo terreno a Chiomonte e che succederà di questi espropri? Allora, io solo per rispondere a Sallustri, beato io, ho comprato 1 metro quadro di terra su cui immagino mi faranno pure pagare l'ICMU o non so che cosa. Quanto l'è costato? Un metro quadro. Chiaramente simbolico. Quanto l'è costato un metro quadro? Come dice? Quanto l'è costato un metro quadro? Guardi, l'ho comprato credo nel 2005, sì. E non ricordo, mi sarà costato poche decine di euro. Onestamente non le ricordo. Anche se fosse, mi permetto una battuta, anche se fosse edificabile in 1 metro quadro, non è che ci potrei costruire una torre, un torretto che sale verso il cielo. Allora, il problema è molto semplice. Visto che non ci vogliono ascoltare come cittadini, vedremo se ci ascolteranno come proprietari, posto che qui pare che l'unica che conti sia la proprietà. Allora uno ci prova. Ma lei, cosa prova nei panni di essere in qualcuno che ha rappresenta per anni lo Stato, adesso va contro le istituzioni di fatto, cioè con anche carte bollate, immagino ricorsi? Io trovo un'assoluta coerenza, perché nel momento in cui ho cercato per anni di promuovere i diritti che sono costituzionalmente previsti, continuo in una realtà in cui credo che una serie di diritti vengano dati a fare nel totale rispetto della legge, perché credo che sia un mio diritto comprare un di terra e oppormi a chi me lo vuole espropriare con le forme normali, facendo delle azioni legali, facendo delle forme di illegalità. Credo che sia un modo corretto di porre dei problemi, anche perché vede, è facile concentrarsi poi sul frammento finale e sui violenti che fanno delle sciocchezze. Se si vuole risolvere definitivamente il problema della Valsusa, bisogna ricordare che nelle ultime manifestazioni della Valsusa c'erano 50-60 mila persone. Per carità, se si vuole svuotare una valle e deportare altrove i valligiani, ci si accomodi. Il problema è sempre quello delle minoranze rumorose, in questo caso anche a rischio violenze. In ogni caso, ringrazio sia il direttore del giornale Alessandro Sallusti e Livio Pepino, ex magistrato, per essere stati con noi. I ringraziamenti a tutti. Ci trovate anche su @24mattino Twitter e @AlinoMilan. Sono io, quello vero, originale. Mi trovate lì. A domani.